Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Mi scusi, dottore, c'è mia moglie con una crisi cardiaca in atto. Mi serve il cardio a donar fiale. Mi dica che ce l'ha, dottore. Dottore, mi dica che ce l'ha. Mi dica che ce l'ha, dottore. Io aiuto. Signore, ti ringrazio. Signore mio, ti ringrazio. Ecco lei. Se guardi che amuto non passa più. Sono 6.000 lire. Mi dispiace, amico. Ah, no. Ti dispiace? Morirà mia moglie. Morirà. Aiuto e fate scare. C'è chi ce n'è e c'è chi se ne. Ah, è la messa di tutti. Aiuto. Dammi la medicina. Ah, prendi la medicina. Medicina. Tra stop and go, la ricerca mondiale è impegnata nella caccia per un vaccino Covid. Ingenti le forze in campo, ingenti le risorse economiche. Ma intanto c'è un vaccino a cui si pensa già in maniera più concreta, vale a dire quello per la prossima influenza. Ecco la medicina. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Perché parliamo di vaccini qui all'Economia delle Piccole Cose? Non parliamo di ricerca, ne parliamo perché l'emergenza Covid ha cambiato anche il nostro rapporto sia di consumi che di gestione economica dei farmaci. Vaccini compresi e compreso appunto quello già disponibile per l'influenza, per il quale, ve l'abbiamo raccontato, c'è anche un braccio di ferro in corso tra Stato, regioni e farmacie. Dietro le nostre abitudini, come spesso capita, i conti da far quadrare e, come capiremo, anche gli equilibri, perché quando si dice che l'Italia e l'Europa dovrebbero essere autonomi e non restare indietro nella ricerca di un vaccino Covid, questo non vale solo per l'emergenza pandemica o rischiamo di dipendere da altri. Prima però un passo indietro. Il boom degli acquisti online non ha tralasciato i farmaci. Fatturato delle farmacie online salito del 64% rispetto al 2019. Ovviamente è difficile pensare che le farmacie in rete possano del tutto sostituire quelle fisiche per tanti motivi, ma intanto noi ne parliamo e saluto Andrea Mangilli, uno dei cofondatori di Pharmacon, principale piattaforma e-commerce per farmacie e parafarmacie in Italia. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie a te Anna. La premessa innanzitutto è doverosa, perché noi abbiamo già parlato in questa trasmissione dell'acquisto di farmaci online. Va chiarito sempre le due regole principali che riguardano il nostro paese. Innanzitutto che a vendere farmaci online possono essere solo luoghi fisici, cioè non può esserci un negozio che è solo sul web, e l'altra cosa essenziale è che ovviamente online si comprano solo farmaci di un certo tipo, cioè non quelli con ricetta medica. E questi sono un po' giusto i contorni di quello delle regole del nostro paese. Corretto, proprio così. Quindi anche le grandi catene che noi vediamo online di vendita di farmaci in realtà un luogo fisico ce l'hanno. In realtà un luogo fisico ce l'hanno. Durante il lockdown abbiamo assistito ad un boom degli acquisti online, come non era capitato prima. Dopo cos'è successo? È proseguito? Il vero e proprio boom l'abbiamo registrato intorno alla decima, undicesima settimana dell'anno, dove siamo arrivati appunto al picco di crescita online di questo mercato, che ha registrato circa un più 150, più 200%, nonostante sia comunque già un mercato che da 3-4 anni a questa parte registra tutti gli anni una crescita molto importante a doppia cifra. Questo trend poi è andato a recuperare il balzo che aveva fatto nelle prime settimane, abbassandosi comunque uno zoccolo duro molto più alto rispetto a quello dell'anno precedente. Quindi comunque una fetta di chi l'ha scoperto durante il lockdown è rimasta. C'è un vantaggio, tra virgolette, molte farmacie hanno cominciato anche ad attivare questo canale, perché ovviamente per certi tipi di farmaci io posso avere la possibilità che le cliente, tra virgolette, non entri ad esempio nel negozio fisico. Esatto, su proprio questo abbiamo lavorato anche insieme al Ministero della Digitalizzazione, accogliendo l'appello rispetto a quelle che sono tematiche di solidarietà digitale, per aiutare le farmacie ad evitare il sovraffollamento all'interno degli spazi. Quindi, cioè, se mi serve il solito analgesico, posso evitare di andare a fare la coda fuori e di intasare per altri farmaci magari per i quali serve la ricetta e quindi devo per forza andare. Esatto, posso assolutamente evitarlo. E poi ho finalmente scoperto anche la comodità di poter avere il farmacista a casa. Ricordiamoci che dietro ad uno schermo ci sono delle persone con delle competenze, una professionalità importante. Il farmacista è comunque anche da remoto a disposizione del proprio cliente, che semplicemente si sta avvalendo di un canale di acquisto differente. È un e-commerce, ricordiamolo, un po' particolare, per il quale va mantenuta la sicurezza fino all'estremo, però è un canale anche questo. Alcune farmacie, ad esempio, hanno attivato anche dei canali WhatsApp attraverso i social. È più alla portata di alcune persone che devono ancora coltivare una certa maturità digitale, quindi con strumenti semplici come WhatsApp riescono comunque ad avvalersi di un processo di acquisto da casa. Quanti sono gli italiani che sono disponibili ad utilizzare questi canali, che si fidano tra virgolette? Ormai l'italiano ha imparato a capire di chi si può fidare, però anche le generazioni passate oggi, anche per un tema di ovviamente comodità, si stanno convincendo ad affidarsi a questi canali. Grazie allora per essere stato con noi. Sì, buona giornata. Dammi la medicina, prendi la medicina. In Italia negli ultimi anni è cresciuta via via la fiducia nei vaccini. Nel 2015 era tra le più basse d'Europa, solo 3 su 10 si fidavano, tra il 40 e il 50 nel 2018. Ora vedremo, quando si arriverà ad un vaccino che possa fermare la pandemia, quale sarà la reale fiducia degli italiani. Ma intanto, come sempre, ne parliamo anche da un altro punto di vista. Facciamo i conti. E saluto Henrik Hosserman, presidente Asso Generici, benvenuto. Grazie a Radio 24 e a tutti gli ascoltatori. Vaccino per l'influenza, partiamo da questo, anche se in questi giorni si parla di ben altri vaccini. Negli anni scorsi ci sono state campagne di sensibilizzazione, quest'anno la richiesta anche per chi vorrebbe farlo in effetti è un po' più difficile. In realtà quanti poi realmente lo usano? Ma noi abbiamo delle statistiche che sono abbastanza variabili in funzione delle varie regioni. Diciamo che in modo preponderante la popolazione è sopra i 65 anni. Adesso il Ministero della Salute ha suggerito pesantemente che la campagna vaccinale si abbassasse almeno da 65 a 60 anni. Alcune regioni stanno adottando questi provvedimenti. Quest'anno è un anno un po' particolare, quindi in realtà anche il vaccino antinfluenzale, quello proprio classico, senza quello del Covid, verrà gestito in maniera un po' diversa, un po' più controllata dallo Stato, perché è un anno particolare. Ma anche al netto di tutto questo, per i vaccini, come per i farmaci, vale il brevetto, vale a dire che chi li trova per un po' di anni ne ha il controllo. Poi entrano nel libero mercato. Ecco perché anche le discussioni, ad esempio, su chi sarà il primo a trovare il vaccino Covid. Esattamente. La fetta di torta, anche economica, è grossa. Sul vaccino Covid è enorme, però ci saranno dei sistemi di controllo per cui il ritorno economico verrà probabilmente limitato. Per quanto riguarda il vaccino influenzale, anche lì la torta è importante in termini di unità, però il vaccino influenzale, come negli anni scorsi e anche quest'anno, va in gara, ovvero le regioni, in questo caso, per quanto riguarda l'Italia, faranno delle gare e le aziende che le produttrici aderiranno a questa gara, chi sarà in grado di fornire a prezzo più basso fornirà il mercato. L'altra questione su cui siamo dipendenti da altri, non per il Covid, già lo siamo, riguarda anche le sostanze che compongono i farmaci. La nostra dipendenza si chiama Cina e India, ma ce lo spiega meglio. Nel tempo, se noi ritorniamo indietro negli anni 80, l'Europa era in grado di completare la catena. Cioè trovo il farmaco, ho i principi primi, li compongo, ho il mio farmaco o vaccino, esatto, che sia, sempre, e va in farmacia. Allora io faccio sempre questo esempio: prima i mattoncini del Lego si fabbricavano in Europa. Adesso i mattoncini del Lego si fabbricano prevalentemente in Cina e in India. Dopodiché le aziende farmaceutiche comprano i mattoncini per fare la casetta. Allora, cos'è successo? Che soprattutto negli ultimi mesi con il Covid eccetera eccetera ci sono state molti farmaci che sono stati a rischio, nel senso che non si rischiava di non avere sufficienti farmaci soprattutto per la terapia intensiva da somministrare agli ospedali. E questo è un problema che l'Europa sta affrontando e ha affrontato, e quindi ci si sta approntando affinché i mattoncini o la maggior parte dei mattoncini possano ritornare a essere prodotti in Europa, o quantomeno avere degli accordi forti con i produttori indiani e cinesi, in modo tale che non si rischi ciò che è stato appunto nel mese di marzo, aprile, maggio. Basti pensare a tutto il problema dei trasporti. Quando c'è stato il problema del non abbiamo le mascherine, le facevano in Cina, la stessa cosa vale per i farmaci o per i vaccini. Sì, esattamente. Per fortuna, qui sottolineo per fortuna, grandi problemi di carenze non ne abbiamo avuto. Abbiamo avuto delle punte di pochi giorni dove non ci sono stati farmaci, ma noi non possiamo, dobbiamo pensare al domani. Quindi dobbiamo attrezzarci affinché tutta la catena diventi più corta e si possa produrre in Europa. Ovviamente questo riguarda i farmaci cosiddetti ancora sotto brevetto, quindi che può produrre solo chi li ha, tra virgolette, scoperti. Vale anche per gli per i generici, vale anche per voi. Soprattutto perché le carenze, le acuzie di sono state rilevate prevalentemente nei farmaci fuori brevetto. Perché vi ricordiamo che, per esempio, nella terapia intensiva il 90% dei farmaci usati erano farmaci fuori brevetto. I prodotti sotto brevetto prevalentemente vengono prodotti da Big Pharma, da case farmaceutiche, nei loro siti produttivi o hanno dei siti produttivi che controllano direttamente, i vaccini. Perché i vaccini non sono sotto brevetto, perché ogni anno il vaccino viene prodotto sulla base di determinati standard. E quindi, in teoria, qualunque azienda farmaceutica può produrre il vaccino secondo le specifiche che, parlo dell'influenzale evidentemente, secondo le specifiche che di anno in anno vengono cambiate. Dico una sciocchezza se dico che circa il 60% di questi mattoncini ormai sono in Cina, cioè parliamo di un numero enorme. Sì, grosso modo, i mattoncini sì, è enorme, sì. Ma perché? Per una ragione essenzialmente di costo. I prezzi dei farmaci oggi sono estremamente bassi, perché se lei pensa che il prezzo medio di un prodotto che è in lista di trasparenza, ovvero rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, è tra i 5,50 e i 6 euro. Questo è il prezzo che viene pagato, quindi il ricavo industria, cioè a quale prezzo al quale l'azienda lo vende, è intorno ai 3 euro, tra i 3 euro e 3,50 euro. Quindi con 3 euro e 3,50 euro lei capisce che, per cui tutte le aziende, la maggior parte delle aziende farmaceutiche, si approvvigiona dove i mattoncini costano meno. Quindi però abbiamo abbassato il costo dei farmaci o dei vaccini, ma di fatto creato un monopolio di controllo che si trova in Cina, più o meno. E il rischio è questo, sì, più o meno. Il fenomeno si è acuito negli ultimi 2 anni e soprattutto negli ultimi 6 mesi. Però noi dobbiamo mettere mano a questo sistema, perché prima dobbiamo riportare a casa la produzione di mattoncini, ma c'è un problema fondamentale, che i mattoncini prodotti in Europa costeranno di più. E chi paga la differenza? Chi pagherà e soprattutto quanto saremo disposti a pagare? Lascio a voi la risposta, io mi fermo qui. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. Ci risentiamo con la prossima storia. Un saluto da Anna Migliorati. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.